Siamo all'ultimo appuntamento prima delle vacanze di Natale, anche per la rubrica dedicata a Pio X, in questa ultima settimana appunto della nostra programmazione ordinaria. Saluto ai due insegnanti che sono Giorgia Martin e Giovanna Moretto della scuola primaria di Roncade dell'Istituto Comprensivo. Benvenute. Grazie. Avete partecipato già dallo scorso anno scolastico, quindi siete state tra le pioniere, insomma, del progetto Aurora, coinvolgendo la classe quinta di Musestre con Giorgia nell'ora di religione e invece nell'ora di educazione all'immagine Giovanna, la classe quinta A della primaria. Spiegateci quali piste di ricerca tra quelle proposte dal progetto avete individuato, Giovanna. Allora, beh, io ho approfondito l'aspetto storico-artistico, guidando un po' gli alunni ad osservare e a leggere gli elementi pittorici in alcune opere, particolarmente di Guglielmo ed Emma Ciardi, e anche di alcuni ritratti di Papa Pio X. Che sono conosciuti in parte invece sono meno conosciuti, se ne stanno scoprendo ancora. Giorgio invece? Nel caso nostro siamo partiti dal testo dello storico locale Ivano Sartor. Abbiamo intrapreso un percorso di ricerca storica sulla vita religiosa della parrocchia di Musestre al tempo di Pio X e questo percorso ci ha gradualmente aperto la porta del passato e delle memorie locali. Ivano Sartor se ne intende di Direi storia, proprio di sì. è un noto ricercatore. Giovanna, come avete strutturato il percorso di lavoro, questo che ci avete appena presentato? Beh, siamo partiti dalla visione e dalla condivisione e proprio dall'osservazione di alcune opere pittoriche, appunto, soprattutto quelle rappresentanti la campagna trevigiana del secondo Ottocento e i ritratti di Papa Pio X. Successivamente si è intervenuti sull'immagine rilevando gli elementi compositivi fondamentali, linee, colore, luce, attraverso dei lucidi, pennarelli e vario materiale. Poi, alla fine, ogni alunno ha cercato di riprodurre, chiaramente interpretandola, l'immagine pittorica, utilizzando vari materiali, ma soprattutto pennelli e Certo, adatti tempere. ai bambini, evidentemente. Oltre a questo, Giorgia? Sì, come dicevo prima, noi abbiamo visionato il testo e poi abbiamo anche intervistato personalmente Ivano Sartor. Abbiamo analizzato le fonti da lui indicate e siamo risaliti alle informazioni utili per la ricostruzione della vita religiosa della parrocchia di Musestre. I ragazzi poi hanno consultato personalmente alcune di queste fonti. Infatti, presso la biblioteca del seminario, hanno visionato di persona appunto i numeri della vita del popolo di fine 1800, inizio 1900, e così hanno potuto fare esperienza di ricerca in E archivio. non solo Google, ecco. Appunto, questa è una cosa fondamentale. E poi dalle fonti appunto scritte sono passate alle fonti orali perché sono andati a intervistare nonni e zii e a casa. E anche a scuola, e questa sarà una bellissima esperienza. E l'esperienza di ricerca poi è proseguita nell'archivio parrocchiale, dove alcuni paesani esperti hanno guidato i ragazzi alla lettura di alcuni documenti storici indicati da Ivano Sartor nel suo testo e ne hanno visti personalmente, è stato veramente interessante. Ripeto, sono documenti risalenti al tempo di Pio X. Sono solo 100 anni fa, però insomma è sempre affascinante Davvero. vedere questi documenti. Come hanno reagito i ragazzi? Beh, hanno avuto un inizio di disorientamento, di sorpresa, però poi hanno accolto con molto entusiasmo e anche con interesse, le proposte e soprattutto è piaciuta molto la parte della riproduzione grafico-pittorica in cui allora hanno rielaborato le Hanno immagini in modo espresso un po' anche anche la loro loro, a creatività. modo loro. Beh, confermo l'atteggiamento di sorpresa iniziale e anzi all'inizio avevano espresso qualche difficoltà rispetto alla lettura di quelli che erano le fonti storiche, i documenti storici, però poi si sono addentrati nella ricerca, è piaciuta molto appunto la possibilità di andare in archivio e in biblioteca e particolare entusiasmo l'hanno dimostrato nel momento in cui hanno intervistato e ripreso da soli in molte situazioni a casa e a scuola i nonni e i vecchi zii. E cosa hanno imparato da questa esperienza, secondo voi? Beh, innanzitutto che un quadro, un'opera d'arte si può leggere come si legge un buon libro e che le osservazioni confrontate e condivise possono aiutarci ad apprezzare e a godere un'opera d'arte. Poi il secondo aspetto è stato quello di poter lavorare assieme per un obiettivo comune e quindi poter aiutarsi a vicenda. E inoltre alla fine mi sento anche di sottolineare il fatto che i ragazzi hanno potuto studiare, affrontare un periodo storico che altrimenti alla primaria non viene mai affrontato, non ci si arriva al 1800. Non ci si arriva neanche alle superiori a volte. Giorgia? Beh, nel caso nostro, di affrontare una ricerca storica utilizzando in prima persona sia le fonti storiche scritte che appunto quelle orali. E poi per diversi alunni è stata l'occasione di utilizzare le nuove tecnologie che comunque si usano, però la facilità nell'utilizzare la telecamera piuttosto appunto che la macchina fotografica, è emersa quella che è la loro natura di nativi digitali. E poi condivido con Giovanna l'importanza del lavorare in gruppo per perseguire un obiettivo, e nel loro caso è stato utile non solo lavorare tra pari, ma anche avere come collaboratori la loro famiglia, zii, nonni, genitori. È stata veramente una collaborazione preziosa. In primavera, lo ricordiamo, il progetto Aurora, con tutti quelli che vi stanno partecipando, avrà anche una fase concreta. Per quanto riguarda voi, cosa vedremo? Beh, i nostri percorsi e i relativi prodotti realizzati dai ragazzi verranno esposti appunto in questa mostra che verrà allestita, come diceva appunto lei, nel mese di maggio. Giovanna? Sì, sì, noi esporremo le varie fasi di lavoro, soprattutto le fasi appunto di analisi grafica e di elaborazione pittorica dei dipinti di cui abbiamo parlato prima, insomma. E nel nostro caso, della classe quinta di Musestre, esporranno quelle che sono le varie fasi di lavoro, portando esempi di fotografie e di documenti. E in più, oltre al fascicolo che hanno prodotto, verrà anche proprio fatto visionare un DVD che esprime quelle che illustra i momenti principali di tutta la loro esperienza. Abbiamo un minuto giusto per i ringraziamenti. Ringraziamo la nostra dirigente scolastica, la dottoressa Anna Maria Pietrobon, che ci ha offerto lo spunto per intraprendere queste bellissime esperienze. I ragazzi che con la loro curiosità e intraprendenza hanno reso vivaci queste proposte di ricerca. Un grazie alle colleghe che mi hanno sostenuto, nel caso mio Raffaella ed Elisa, alla collaboratrice scolastica Fabia e a tutti quei genitori che hanno partecipato, la signora Ricoletta che ha realizzato il DVD, mamme, signor Danilo, Armando e Ivano Sartor, che è stata la nostra guida preziosa. E noi ringraziamo allora Giovanna Moretta e Giorgia Martin per la scuola primaria di Roncade, le classi di Musestre. Erano le quinte dell'anno scorso, sì, quindi sì. Sono in prima media, esatto. Quest'anno, e quindi un po' li avete persi più o meno. No, perché sono lì nell'istituto comprensivo. Vabbè, li terremo d'occhio e ci rivedremo in primavera. Grazie per essere state con noi. Grazie a voi.